potrebbe andare tutti allo zoo comunale, vengo anch'io, no tu no, per vedere come stanno le bestie feroci e gridare aiuto, aiuto, è scappato il leone e vedere di nascosto l'effetto che fa. E vengo anch'io, vengo anch'io, no tu no, vengo anch'io, no tu no, ma perché? Perché no? Potrebbe andare tutti quanti alla che primavera, vengo anch'io, no tu no, con la bella sotto braccio a parlare d'amore e scoprire che va sempre a finire che piove e vedere di nascosto l'effetto che fa. Vengo anch'io, no tu no, e vengo anch'io, vengo anch'io, ma perché? Perché no? Allora, buongiorno, ecco la trasmissione domenicale di Vengo Anch'io. Speriamo che oggi funziona tutto, che non ci impicciamo come al solito, vero? Fa parte della caratteristica. Partiamo subito con i numeri, che sono essenziali. Questi numeri servono molto da tenerle presente, sono il conto corrente postale per sottoscrivere a Radio Onda Rossa. Allora, il conto corrente postale è 6180 4001, intestata a Radio Onda Rossa, via dei Volsci 56, Roma. Chi vuole può aiutarci attraverso questo versamento di conto corrente postale. Chi non vuole andare alla posta può venire a portare i soldi alla radio. C'è sempre qualcuno che vi accoglie con molto gradimento. E c'è in edizione, sono usciti, il primo quaderno di Radio Onda Rossa dedicato alla Grecia, con molti spunti di informazione, di notizie che sicuramente non troverete sui giornali. Questo quaderno serve anche a sottoscrivere alla radio, col costo da 3 euro in su. Cioè, qualcuno può dare anche di più, fa pure rima. Fatto questi preliminari, queste situazioni, oggi cominciamo. Intanto oggi è 15 aprile, ci sarebbero tante date di scadenza. Il 15 aprile hanno giustiziato Sacco e Vanzetti e noi potremmo partire da allora a ricordare tutte le stragi che poi vengono sempre a danno del movimento di lavoratori. Però noi ricordiamo subito che l'anno scorso, come oggi, uccidevano Vittorio Arrigoni, la voce libera della Palestina, almeno per l'Italia. Finché c'era Vittorio Arrigoni in Palestina si riusciva molto a vedere realmente quello che accadeva là, perché aveva una capacità descrittiva e un'umanità in cui faceva percepire esattamente le stragi giornaliere che venivano perpetrate ai danni del popolo palestinese, in particolare dei bambini palestinesi. Un compagno militante della causa palestinese e veniva ucciso da bande palestinesi, si dice, ma il Mossad sappiamo come opera, come si infiltra. A distanza di un anno ci sarà manco un processo reale, come il processo delle stragi. Qui in Italia, a partire dal 1947, moltissime stragi di Stato, e possiamo dire formalmente, perché anche se le sentenze non hanno trovato colpevoli materiali, ma lì viene descritto che lo Stato manovrava e colportava. E ieri c'è stata l'ultima sentenza in cui hanno assolto tutti gli imputati della strage di Brescia, con la beffa di condannare i familiari alle spese processuali. insomma, no, ci sono molte cose di spunto di discussione. Io do la parola, ricordando Vittorio Arrigoni, a Giorgio. Nel frattempo proviamo a chiamare delle persone che sono bloccate all'aeroporto di Fiumicino, perché oggi il ricordo di Vittorio Arrigoni, delle delegazioni internazionali da vari aeroporti europei e mondiali partivano per arrivare a Gerusalemme, a Gerusalemme, dove ovviamente scendevano all'aeroporto di Tel Aviv. Gli israeliani sono riusciti a bloccare queste delegazioni agli aeroporti di partenza, con la complicità dei stati, perché altrimenti l'avrebbero dovuto bloccare lì se fosse una cosa del paese. Adesso sentiamo se riusciamo a sentire qualcuno dentro che è chiuso all'aeroporto. Vai. No, niente, questo che ricorda... si sente, Ettore? Funziona. Allora, buongiorno a tutti. No, questo che ricordava Ettore sono stati fatti gravissimi in questi giorni. Ricordava delle stragi di Stato, Piazza della Loggia, 8 morti, centinaia di feriti. Dopo 38 anni nessun colpevole. Viene consegnata praticamente tutti gli eccidi che hanno l'impronta, l'intreccio tra terrorismo nero, bombaroli neri, apparati dello Stato, vengono consegnati alla storia. Dal punto di vista giudiziario non c'è nessuna condanna. Ricordava Ettore, oltre che il danno non solo per i familiari ma per la democrazia di questo paese, anche la beffa con la richiesta di risarcimento alle parti civili delle spese processuali. Seconda questione, il Flaitiglia Day, questo che Ettore ricordava. Adesso Ettore sta cercando un collegamento con l'aeroporto di Fiumicino. Vengono bloccati su ordine, non ho nessuna, diciamo, remora ad usare questo termine, da parte del governo israeliano, dei servizi segreti israeliani agli altri stati, di bloccare sul luogo di partenza, agli aeroporti di partenza, tutti coloro che intendevano, diciamo, arrivare a Tel Aviv per questa manifestazione. È un fatto, io ritengo, per la democrazia italiana gravissimo, perché si impedisce a delle persone nello Stato, da parte dello Stato stesso, del proprio Stato d'appartenenza, di circolare liberamente. Io trovo questo, diciamo, un fatto estremamente grave, che non solo è un'onta per il popolo italiano, ma è il peggior modo per ricordare Arrigoni, come diceva Ettore, che è stato, diciamo, uno dei migliori, delle migliori voci che ci ha raccontato le reali situazioni che c'erano sia nella striscia di Gaza e nell'area, diciamo, di pertinenza palestinese all'interno dello Stato israeliano. Io ritengo che su queste questioni, che sembrano apparentemente oggi, data la situazione italiana, la grave crisi economico-sociale, ma anche la grave crisi democratica di questo paese, possono sembrare cose che stanno ai margini, però credo che queste si ascrivano. Serafino, ci abbiamo la corrispondenza prima che ci cade. Pronto? Pronto? Sì. Dici come è andata questa mattina questo blocco che è stato fatto all'aeroporto? Sì, allora, per fare il check-in hanno tirato fuori delle liste. Puoi alzare un attimino la voce? Siamo venuti alle 7 di questa mattina per il check-in per il volo delle 9:20 per Tel Aviv e facciamo parte della missione Benvenuti in Palestina, una missione assolutamente umanitaria che ovviamente, come tutte le cose umanitarie che riguardano la Palestina sotto occupazione, non può non avere un riflesso politico, e loro questo lo sanno molto bene, per cui hanno tirato fuori delle liste e ci hanno impedito di partire. 7 di noi sono stati bloccati. Non abbiamo tenuto il profilo bassissimo fino ad ora, cercando di utilizzare soltanto le norme del diritto, anche se certo con tutto quel che riguarda Israele è molto difficile farlo, e non c'è stato nulla da fare. L'unica proposta che ci è stata fatta, assolutamente provocatoria, è stata quella di ridare i nostri nomi, ci avevano bloccato sulla base dei nostri nomi, di ridare i nostri nomi, i nostri numeri di passaporto, le nostre email, e Israele a quel punto avrebbe deciso se farci imbarcare per un altro volo oppure no. Cioè, palesemente sciocca questa cosa o provocatoria. E la carta di divieto di imbarco che ci hanno dato, un pezzo di carta vero e proprio, firmato da un funzionario che non si è fatto vedere, diceva che in base a una legge del 1952 di Israele noi non potevamo essere imbarcati. E questo è quanto. Adesso una legge israeliana, in poche parole, va bloccata all'aeroporto, non la legge italiana. Ok? Sì, senti, ma delle altre delegazioni, degli altri aeroporti che devono partire, c'hai qualche notizia? Alcuni nostri compagni sono stati bloccati in altri aeroporti e alcuni sono riusciti a passare, ma non possiamo dire di più in questo momento, è chiaro? Va bene. Buon pomeriggio. Okay. Ciao, grazie. Va bene, era un po' frettolosa la corrispondenza, perché... Chiaro dal punto di vista della proprio... dell'autoritarismo assoluto di questi provvedimenti, no? E poi non si è voluta la corrispondente, la compagna, dilungare di più, perché a questo punto è evidente che la situazione in altri aeroporti è analoga a quella di Fiumicino. Qualcuno che magari è riuscito a passare perché non era finito in queste liste di proscrizione e potrebbe essere compromesso, quindi che non riesci neanche a dire di più, se non effettivamente che insomma i motivi, ma credo neanche gli Stati Uniti siano mai arrivati a per quanto sia difficile sempre che quando vai negli Stati Uniti ti chiedono se sei appartenuto a organizzazioni terroristiche, insomma c'è una procedura piuttosto forcaiola, no? Anche lì per ottenere il visto d'ingresso eccetera eccetera, ma credo che non sono mai arrivate a questi livelli qua. D'altra parte, insomma, non è di molti giorni fa la dichiarazione contro lo scrittore tedesco che è stato dichiarato persona indesiderabile, insomma, anche a parte che è stato pure premio Nobel, ma una cosa questo... dico io, ma loro andavano in Palestina, non a Israele. Perché Israele cioè, è stato riconosciuto lo Stato in termini... No, ma queste sono tutte chiacchiere a livello delle istituzioni internazionali, delle cose, eccetera, eccetera. Poi la sostanza è che per entrare in Israele devi sbarchi in un aeroporto israeliano, per entrare in Palestina sbarchi in un aeroporto israeliano, quindi chi c'ha la chiave d'accesso formale e sostanziale... il governo israeliano, insomma, questa è poi la realtà dei fatti, e questo è quello che poi non fanno finta di vedere tutte le anime buone e belle di questa terra, l'ONU, chi vi pare, la comunità europea, che sì, fai pure bella figura a dire riconosco i diritti del popolo palestinese, poi di fatto sti diritti sono negati, insomma, perché quando tu consenti questo... Le chiavi del portone, insomma, delle galere ce la stanno in mano all'esercito israeliano, al governo, eccetera, eccetera. Ma non bloccano solo i diritti dei palestinesi in questo modo, ma i diritti di altri paesi, come questo gruppo di sette italiani. Insindacabile giudizio del governo israeliano, vieni equiparato evidentemente a sei una persona indesiderabile, se non te faccio entrare sei una persona indesiderabile, quindi io non conosco questa legge del 52 dello Stato di Israele, però sarà qualcosa del genere, non so se appunto se è la stessa che hanno applicato allo scrittore tedesco, insomma, no? a Günter Grass, insomma, ecco, che è giudicato persona indesiderabile, che io ricordi a memoria mia, insomma, questa era una cosa che negli anni 60 o giù di lì Israele applicava a chi era stato colluso col nazismo, in qualche modo collegato con i crimini nazisti o comunque col governo del Terzo Reich, insomma, ecco. Ma oggi viceversa è esteso a tutti indistintamente, senza, insomma, nessuna possibilità d'appello, tra l'altro con l'assoluto silenzio, lo diceva adesso Serafino della, dei governi occidentali, insomma, qui nessuno protesta, ma perché che te metti a protestare per quattro sciagurati che vogliono andare lì? Può darsi lì, che non è un silenzio per caso, ma una complicità, non è un silenzio. Ma questo è sicuro che ci siano una, ormai c'è una assuefazione, diciamo, in un determinato modo di tenere i rapporti sia con Israele e d'altra parte di non tenere i rapporti col popolo palestinese, al di là di quello che diceva giustamente Giorgio, al di là delle apparenze, dei formalismi in cui, attraverso i quali si dice piena solidarietà, due terre, due popoli, eccetera, poi di fatto insomma il popolo palestinese è abbandonato a se stesso. Poi dopo abbiamo visto pure che quando non ci sono interessi materiali legati a petrolio, a fonti energetiche, ci si dimentica subito rapidamente delle situazioni, diciamo, di lotta, guerre civili, guerre guerreggiate, insomma queste non fanno, non rientrano nemmeno nella sesta, settima pagina dei giornali, un trafiletto, no? Abbiamo visto quello che è successo con la Libia, no? Cioè dalla Libia adesso non se ne parla più, non si sa cosa accade, no? Abbiamo visto che però fino a un certo punto che erano necessari salvaguardare oppure perorare alcuni interessi quello che era il battage pubblicitario. Guarda, su questo piano, visto che insomma stiamo parlando di soprusi di varia classificabili in vario modo, insomma ieri abbiamo avuto anche un assaggio di quello che è successo, non è paragonabile a questi, bisogna fare sempre i dovuti paragoni e le dovute proporzioni, però qualcosa che è dello stesso stampo, no? Alla fine della manifestazione di ieri c'è stata proprio una minima contestazione da parte di un componente del corteo che voleva proseguire per arrivare, sto parlando della manifestazione, per chi si è messo in ascolto adesso, ascoltatori e ascoltatrici, ieri c'era questa manifestazione contro l'inceneritore d'Albano, è stata numerosa, sono venuti molti comitati collettivi da varie parti della provincia, direi anche della regione, insomma in alcuni casi buona la partecipazione anche da parte del movimento romano, quindi e della popolazione locale, quindi una manifestazione riuscita numericamente, come contenuti, tutto quanto, hanno fatto un bel giro per il comune d'Albano, ci volevano fermare prima, poi viceversa alla fine hanno vista la numerosità, hanno in qualche modo consentito che si ritornasse alla piazza, a piazza Mazzini da dove si era partiti. Tornando a Piazza Mazzini, una parte del corteo ha cercato di indirizzarsi verso il bivio per l'Appia per bloccarlo, per ulteriore dimostrazione insomma del fatto che lì il Consiglio di Stato, no, come abbiamo raccontato alla radio più volte, ha annullato due sentenze del TAR che erano favorevoli alla popolazione, il Consiglio di Stato viceversa ha ribaltato queste cose, per cui dando via libera alla costruzione di questo inceneritore, almeno formalmente, poi sul piano pratico è tutto da giocare ancora. Quindi questo tentativo poi rintuzzato dalle forze dell'ordine, non c'è stato nessun parapiglia significativo, veramente insomma poche cose, e quando poi la manifestazione più tardi, insomma parecchia gente ha stazionato, c'era pure in comizio, c'erano gli interventi, ha stazionato sul piazzale a lungo, quando stava proprio in via di deflusso la polizia ha cominciato a fare piccole provocazioni, piccole grandi non lo so, comunque alla fine di queste piccole grandi provocazioni di stuzzicare insomma alcuni che avevano partecipato al corteo, ha fermato un ragazzo e l'ha portato in questura, giovane, minorenne, e siccome questo non è stato capito né digerito dagli altri partecipanti, l'hanno accompagnato fino alla questura, al commissariato d'Albano, e lì hanno stazionato per un po' una cinquantina, 40-50 persone che chiedevano, volevano sapere perché era stato arrestato. Beh, a loro volta questi sono stati circondati dalle forze di polizia, proprio imbottigliati letteralmente, sono stati tutti identificati, E quando quindi hanno chiesto i documenti per forza, lì era difficile insomma sottrarsi a queste cose, non si capisce perché, perché stavi sul suolo pubblico, insomma non era zona off limit o che. E poi quando gli hanno ridato i documenti l'hanno tutti filmati proprio da vicino, belli con le telecamere eccetera eccetera, insomma, no? Questa è una schedatura di massa, come la vogliamo chiamare, senza nessuna giustificazione, tra l'altro. Insomma, ormai no? fanno le prepotenze dappertutto, nel senso che poi sono stati, infatti leggevo stamattina alcune cose che sono uscite sui giornali, e parlava di un arresto e 40 denunciati per i cosi in cui ci sono 6 poliziotti che, se come al solito, si sono fatti refertare delle ferite, insomma, come al solito, insomma, ormai i poliziotti, qualsiasi cosa succede, se nevica, si fanno refertare le ferite. Però tutto questo si lega, come è successo pure, no, stiamo parlando della Palestina, i checkpoint, i passaggi, la democrazia, Val di Susa, che questa manifestazione di Albano è collegata alla solidarietà della resistenza valsusina contro la costruzione dell'inutile linea ferroviaria, e una settimana di iniziative che il movimento, diciamo, romano, non TAV, i vari comitati aderenti contro gli inceneritori, contro le discariche, contro... per la difesa, comitati per la difesa specifica dei propri territori, aveva portato a questo risultato della manifestazione di Albano. Pertanto è l'intolleranza che ormai questi non accettano più nessuna forma di dissenso, tant'è vero si sta predisponendo nuove normative di legge che in cui persino un blocco stradale può essere definito come un sequestro di persona con l'arresto in flagranza di reato. Leggevo, ci sono proposte che girano, no? Dentro le menti bacate di questi parlamentari nominati, di questi parlamentari che pensano di rappresentare qualcosa di questo tipo. Insomma, voglio dire, si lega tutta la situazione. Cioè, perché bloccano agli aeroporti la possibilità di portare solidarietà, il ricordo di Vittorio Arrigoni, e si blocca ogni possibilità di poter manifestare la propria dissenso, la propria protesta contro la cosa. Poi dice, ma tu puoi protestare in maniera democratica. Bene, a maniera democratica hanno manifestato venerdì CGIL, CISL, UIL e UGL, hanno portato in piazza gli esodati, questa gente espulsa dal sistema produttivo. Ebbene, la reazione di Aleman è stata in una relazione che se da cabaret potrebbe sembrare, se non fosse seria, in cui ha definito quella manifestazione una violenza a Roma. Hanno strupato la città di Roma perché sono venuti a manifestare, la motivazione era che dovevano portare meno persone, erano troppi. Una manifestazione così numerosa dentro la settimana Roma non può consentirla, dovevano essere 4.000, 5.000, non di più, dato che erano 30.000. Alemanno si è sentito violentato e se l'è presa qua a questura, se l'è presa con tutti, proprio perché questo è un modello di democrazia che loro pensano, che tu puoi al massimo come protesta mugugnare, ma non puoi protestare. E le proteste si fanno come uno le sa fare. Io poi chiudiamo, mettiamo un pezzo musicale per entrare alla discussione che vorremmo affrontare. Voi se eravate presenti, se volete parlare un attimino di quello che è successo ad Albano, cioè voglio dire, quello che sta avvenendo è proprio questa situazione. Noi dovremmo cominciare a pensare che certe situazioni non è che ce le danno concedere, le dobbiamo sapere che ce le dobbiamo prendere e via dicendo. io chiudo su questo argomento dicendo finiamola come finiva sempre tutti i pezzi Vittorio Arrigoni. Restiamo umani, ma la nostra umanità non è quella di stare con la capoccia bassa, ma di tenere la schiena diritta e la capoccia alta. Vabbè, assolutamente l'insegnamento di Vittorio, soprattutto oggi appunto che lo ricordiamo, è sempre valido, è sempre il miglior modo di affrontare le cose. Albano, ieri diciamo che abbiamo visto di nuovo per l'ennesima volta cosa vuol dire il salto di qualità del governo tecnico rispetto alla repressione, rispetto alla mancanza totale di concessione di spazi diciamo di protesta, di espressione delle proprie idee, della propria volontà, di fronte a un semplicissimo tentativo di blocco del traffico, quindi di deviazione, di leggera deviazione di un corteo, cose che sono sempre... Questa è la trasmissione a filo diretto, ci sono le telefonate, noi quando ci sono le telefonate interrompiamo. Okay. C'è una telefonata, pronto, voi continua. Pronto? Sì, buongiorno. Buongiorno. Dunque, io niente, volevo intervenire per sempre sul solito argomento che porto avanti da un po' di tempo, cioè che è quello del boicottaggio mediatico, perché è naturale che grazie alla campagna mediatica che si fa ormai da vari decenni, la popolazione è convinta che i NoTav siano dei terroristi, che insomma quello che cazzo gli pare di a loro. Quindi se vogliamo organizzare una protesta che sia sentita anche dalle alte sfere e che non si riduca soltanto a una passeggiata per le strade della città sotto il controllo vigile degli occhi degli elicotteri della polizia e dei poliziotti che poi quando stanno da soli fanno il cazzo del comodo loro a pistare le persone, allora bisogna che poi quando quelli raccontano le cose per televisione o per radio o per le loro belle riviste paginate non ci sia nessuno che gli dia ascolto, perché finché noi diamo ascolto a quelle che sono le notizie del telegiornale e nessuno stia di io in televisione guardo quello che mi pare, perché tu in televisione te bevi quello che te propinano, no? Perché non ce n'è uno di canale televisivo che dica una cosa che si allontana, che si avvicina lontanamente, ma che si proprio alla realtà, perché non ce ne sta uno, e allora lì poi questi iniziano a magari a capire che se noi non gli diamo ascolto, vediamo come vanno effettivamente le cose intorno a noi, senza filtri mediatici, e a quel punto magari qualcosa può pure cambiare, ma finché noi siamo condizionati da quello che è il bombardamento mediatico e c'è niente da fare. A voi potevo scendere in piazza quanto ci pare, potevo fare quello che ci pare, tanto non tocca a noi. Io sentivo un po' di tempo fa delle operaie di Pomigliano, mi sembra, no? Insomma, di uno stabilimento Fiat, uno degli ultimi aperti, che diceva, quando sentivo i licenziamenti, io pensavo, vabbè, ma tanto a me non mi tocca. E questo è il sentimento che corre per tutta Italia. Tanto per il momento a me non mi tocca. Perché? Perché ci convincono attraverso questi organi mediatici. Cioè, qui bisogna prendere pure un attimino, bisogna fare un discorso un po' collettivo, non soltanto individuale, e qui invece il martellamento che stanno a fare questi è individuale, cioè te ti preoccupare che tanto il culetto tuo per il momento è salvo e allora te non partecipi a un cazzo finché non tocca a te, e poi l'altri però ti accannano da solo come recitava quella rietta del Brecht lì, no? Va bene, lo so che va basta, bene. Basta rafforzare Radio Onda Rossa, una voce del dissenso, più amplificarla, eccolo qua che pure noi su questa cosa riusciamo anche a infiltrarsi. Comunque sempre scendemo per strada, se famo pistate botte, perché questo succede, i giornali, le televisioni, eccetera, ce descrivono come criminali, eversivi, pezzi de merda, manganelli. Se permette dall'appartamento ai Varioli, che paga 1.300 euro al mese, Manganelli, se permette di sollecitare il governo a fare leggi ancora più repressive, e famo tutti pippa. A me mi fa piacere che Radio Onda Rossa lo dice, io me lo sento sempre, vengo anch'io pure tutte le domeniche, me lo sento sempre, però a chi ti rivolgi? Ti rivolgi a chi ormai la pensa come te, mi stai a capire? Cioè, se noi due se stiamo a dire queste cose e rimangano fra noi due, lo sapevo che dimo il giusto, certo, lo sapevo. Se va a vedere quello che invece dice Radio Maria, va, lo sentite mai Radio Maria? L'altro giorno stavo a sentire quello che diceva a proposito da Madonna de Fatima, sono delle cose terrorizzanti, per non parlare di quello che dicono le televisioni, che sono cose altrettanto terrorizzanti. Allora, se loro fanno dei bombardamenti mediatici, noi è inutile che scendiamo per strada a non farsi inculare da nessuno, categoria per categoria. Bisogna fare una cosa collettiva, un boicottaggio. Questi hanno affinato i metodi di repressione e noi dobbiamo affinare i metodi di protesta. Altro che i bastoni, i forconi. Come fai a annacchi i bastoni, i forconi? Che questi c'hanno i satelliti, c'hanno gli elicotteri, c'hanno le forze armate, i cosi. La polizia c'ha le tute de 5 centimetri. Che gli fai? Il solletico. Ma che gli puoi fare? Qui bisogna affinare il metodo di protesta. Bisogna entrare nei gangli del meccanismo, fermare le ruote del meccanismo, e l'unica cosa è con un enorme sacrificio da parte nostra, prendendo i decoder e andando all'AMA a riconsegnarli come primo passo, perché non è vero assolutamente che noi siamo liberi di decidere quello che guarda in televisione, perché la televisione è un lavaggio del cervello continuo ogni secondo. Vabbè, però non ci ripetiamo, l'avevamo detto queste cose, sono d'accordo, adesso no? Okay. Lasciamo un po' di spazio se qualcun altro vuole telefonare e proseguiamo, ok? Ciao. Allora, dicevamo del corteo di Albano, proprio a proposito della telefonata, insomma, volevo fare un accenno alla censura mediatica che c'è stata su quello che è successo ad Albano, perché facendo un giro ieri sera sui vari siti dell'informazione anche locale, quindi anche sulle pagine romane, Roma e dintorni, non c'era nulla. Quindi questo è anche un segnale, mentre appunto, visto che sono successe anche delle cose, delle scaramucce, diciamo, causate dal comportamento delle forze dell'ordine, di solito fino a qualche mese fa si sfruttava la cosa per dire i soliti violenti rovinano le proteste. Riguardo adesso c'è stato un salto ulteriore che è la censura totale, il silenzio, ad Albano non succederà niente, non verrà costruito nessun inceneritore, finché poi l'inceneritore non ci sarà già, e quindi non ci si può fare più niente. Sul comportamento invece repressivo in piazza, il salto di qualità grosso è appunto impedire qualsiasi forma di movimento che non sia autorizzata. Anche questo disegno di legge che prevede da 1 a 5 anni di carcere per il blocco stradale e ferroviario vuol dire questo, cioè vuol dire io per manifestare devo chiedere autorizzazione alla questura, che può non darmela per mille motivi, e se non me la dà a quel punto io appena scendo in strada mi becco un anno di galera. Questo quindi è un salto veramente grosso. Ieri abbiamo visto una prova generale in qualche modo, perché di fronte a una piccola corsetta fatta dai manifestanti per provare a deviare e andare a bloccare una rotonda, cioè non a saltare un commissariato o a fare chissà cosa, a fare cose che si sono sempre fatte, direi da che mondo è mondo, nelle proteste più civili e più tranquille, c'è stata una reazione isterica, una reazione per cui c'è stata una rincorsa e poi si è iniziato a manganellare persone a caso, cioè anche con una certa violenza, insomma sono state scene piuttosto dure anche. A un movimento, appunto, anche a una composizione, questo volevo rispondere anche un po' alla telefonata, nel senso che qualche esempio di come si sfonda il muro mediatico, o quantomeno di come si tenta di sfondarlo, noi ce l'abbiamo dalla Val di Susa. Lo sembra sempre che tiriamo fuori sempre la solita Val di Susa, però è vero che lì, nonostante tutti i tentativi di boicottaggio, di criminalizzazione o proprio anche di boicottaggio e di mettere a silenziare quella lotta, là non ci sono riusciti, perché è una lotta condivisa, popolare, in cui si parla nei bar, si parla porta a porta, non, si scavalca un po' quello che è la comunicazione solo televisiva. Ad Albano si vedeva una cosa potenzialmente simile, perché c'era la cittadinanza in piazza, c'era una cittadinanza incazzata perché un inceneritore ti avvelena, ti distrugge il territorio, un territorio già provato per vari motivi, emergenza idrica e non solo. Di fronte appunto a ogni minimo tentativo di una cittadinanza che non ne può più, un minimo tentativo di fare una protesta più visibile, più che non sia circondata nel ghetto del percorso autorizzato dalla questura, c'è una violenza che prima non vedevamo, perché nei movimenti studenteschi degli anni scorsi facevamo un po' il cazzo che ci pareva, insomma adesso ci stanno dicendo guardate che basta, cioè, adesso non fate più niente. La festa è finita, andate in pace, a casa o in galera. Cioè, l'unica due alternative che questa democrazia ci sta propinando, e purtroppo su questa cosa noi dobbiamo trovare pure una forma diversa. Io quando no, non è che portiamo sempre la Val di Susa come, lo portiamo come esempio perché è una lotta che da 20 anni resiste con alti e bassi, una lotta che non si è fatta problemi di dividere buoni e cattivi, violenti e pacifisti, ma si è posta l'obiettivo, e ogni volta che c'è un obiettivo determina quali sono le condizioni per mantenere vivo e arrivare agli obiettivi. Contro i venditori di fumo che purtroppo ci avevamo intorno a noi, che ogni volta che avviene qualche cosa subito prendono posizioni violenti, non violenti, pacifisti, non pacifisti, no, arroganti, anarchici, comunisti, no. Questa condizione, noi dobbiamo superare questa situazione se vogliamo sfondare il livello mediatico e il livello di consenso, perché ormai la distruzione sociale è totale. Cioè, non è che possiamo aspettare che le cose avvengano e poi ci piangiamo sulle cose avvenute. Poi do subito la parola, se ne... Perché sto fatto che la CGIL ci sloquille, ciulla non ermanico, dopo 5 mesi che è varata la riforma previdenziale e si accorgono dei disastri e provano a fare una manifestazione, dopo 5 mesi è chiaro, coi buoi usciti dalla stalla ormai, no? Cioè, o dovevano fare subito, perché se non avevano capito che c'erano quelle condizioni dentro quella legge, vuol dire che non capiscono un cazzo. No, Ettore, noi stamattina, anche se per accenni rapidi, abbiamo esaminato una serie di episodi che segnalano tutti un tentativo di limitazione delle libertà, dei diritti. Si parlava praticamente dei sequestri avvenuti nei vari aeroporti oggi, in concomitanza con il Flightiglia Day. Noi siamo stati in collegamento poco fa con una compagna che era praticamente sequestrata all'aeroporto di Fiumicino, perché si impedisce, su richiesta molto autoritaria del governo israeliano, di non far partire i partecipanti al Flightiglia Day. La novità alla quale facevamo riferimento è appunto che il sequestro avviene addirittura nei paesi, diciamo, di partenza. Non è che tu vieni sequestrato in Israele, no? Vieni controllato già nel paese. Abbiamo accennato adesso a quello che è accaduto ad Albano. Quindi tutta una serie, potremmo accennare a tanti altri episodi, alle manifestazioni dei giorni passati, delle settimane passate, che hanno visto un intervento repressivo delle cosiddette forze dell'ordine, dico cosiddette in questo caso non a caso, perché non è che si sono, diciamo, limitati a garantire l'ordine, hanno fatto qualcosa che è andato ben oltre, a volte favorendo il disordine essi stessi. Io dico questo, la morale che noi dobbiamo trarre da questi episodi è questa, che il potere così, una volta si diceva, io uso questa terminologia, non mi fa velo, non c'ho remora a usarla, il potere borghese in genere, e oggi il potere, nella fattispecie il potere bancario finanziario, cioè la borghesia bancaria finanziaria al potere, con tutti i suoi ovviamente... con tutti i suoi bracci armati che vanno dalle forze, dalle disposizioni che si danno alle forze dell'ordine, ai controlli che vengono effettuati attraverso i mezzi di informazione, ti impone, pretende dal popolo, dai lavoratori, da chi protesta la legalità, ma non ama affatto la legalità, perché il potere borghese sostanzialmente, il potere di questo sistema finanziario, perché oggi stiamo dentro una sorta di dittatura finanziaria, non può amare la legalità, perché ha bisogno proprio di rompere in determinati momenti per la propria salvaguardia questa legalità, quindi la invoca per te che scendi in piazza e protesti, come ricordavano i compagni, in maniera del tutto civile, persino con un profilo basso in molti casi, però poi immediatamente la rompe, perché questa legalità non è oggi funzionale ai propri indirizzi, ai propri propositi, ai propri interessi, perché ogni cosa che si muove nel segno della protesta non viene tollerato. Io cito, questa è una storia antica, non è una storia d'oggi, questa mancanza di legalità da parte del potere costituito, questa insofferenza per la legalità quando vengono minacciati i propri interessi da parte del potere costituito è un'antica storia. C'era un ministro nel periodo della rivolta in Francia del 1848, parliamo di 150 anni fa e più, che diceva esattamente questo: quando il popolo protestava e loro non erano in grado di reagire democraticamente ma dovevano mettere in ballo forme repressive, diceva: la legalità ci ucciderà, quindi va rotta. Loro, se stanno nel campo della legalità oggi, è chiaro che non riescono a tenere, diciamo, le fila, non riescono a proteggere i loro interessi, hanno bisogno di queste rotture. Ora, io poi magari ci torniamo anche sopra, però la telefonata non è la prima che si fa qui a radio, avvengo anch'io la domenica. Alla fine la telefonata precedente segnala un fatto, cioè di fronte a questo scenario, se questo è il dispiegamento delle forze oggi dominanti che attuano forme repressive anche molto sofisticate, la domanda che ci dobbiamo porre: quali sono i mezzi altrettanto sofisticati, un po' più raffinati, diceva la telefonata stessa, da mettere in campo affinché la nostra azione non sia solo un'azione che mandi, tra virgolette, diciamo, al macello i compagni che di volta in volta protestano? Io credo che a base di tutto, al di là poi di trovare nuove forme di lotta più sofisticate, più tecnologiche, ci sia da fare una riflessione. Chiudo su questo fatto, chiudo l'intervento su questo fatto. La riflessione da fare è come le lotte non vengono lasciate a se stesse, cioè ritorna a questo problema: come si unificano su scala nazionale una serie di lotte. Questo è un problema, compagni, che noi che ci assilla. Cioè l'unificazione di quelle lotte sulla base pure di una proposta politica che faccia convergere, diciamo, queste lotte, le singole lotte all'interno di una lotta più generale ed unitaria, è un problema che noi dobbiamo risolvere. Va bene, adesso interrompiamo con un pezzo così come viene, non so, un pezzo musicale, e poi riprendiamo. Ve l'ho già detto, ripeti ancora, non ho capito, sono Rossini, iscritto al partito, sor commissario, mi conoscete? Confessa allora, tu l'hai colpito, non mi costringere a farti del male. Tu sai benissimo, conosco dei mezzi che anche le tombe fanno parlare. Sor commissario, i vostri mezzi sono 3 ore che li sopporto, e se volete vedermi morto, continuate pure così. Aveva solo un vestito da festa, se lo metteva alle grandi occasioni. A lui gli dissero: domani ai padroni gliela faremo pagare. e l'indomani quando era già l'alba aprì l'armadio, il vestito si mise, guardò lo specchio, la faccia sorrise, guardò lo specchio e si disse di sì. E andò alla fabbrica ed erano in mille, tutti gridavano l'odio e il furore. Forse Giovanna il vestito vedeva in quella folla tra tanto colore. Ti han visto tutti, tu sei finito, c'è anche del sangue sul tuo vestito. Quei cinque uomini che sono morti, sulla coscienza lì hai anche tu. Sor commissario, voi lo sapete, quali che sono i veri assassini, quelli al servizio degli aguzzini, che questa vita ci fanno fare. E questo sangue che ho sul vestito è solo il sangue degli innocenti che protestavano perché fra i denti solo ingiustizia hanno ingoiato. Aveva solo un vestito da festa, se lo metteva alle grandi occasioni, a lui gli dissero domani. Allora torniamo in diretta e abbiamo parlato oggi nell'introduzione della, sia di Vittorio Arrigoni, perché ricorre l'anniversario della sua uccisione, e abbiamo sentito dalla corrispondenza che tipo di reazioni ha avuto il governo israeliano, e poi stavamo parlando anche della manifestazione di ieri ad Albano, che insomma sì, c'è il richiamo della Notav, comunque la manifestazione ad Albano c'ha le sue caratteristiche specifiche, insomma è anche quella, non va avanti da 20 anni come lotta certamente, ma insomma è qualche anno che la popolazione, i compagni, i comitati che agiscono sul territorio insomma la portano avanti su questa specifica questione dell'inceneritore, ma anche della discarica di Roncigliano, e su questo insomma sta diventando un po' il punto focale di tutto quello che si è negli ultimi tempi sollevato qui intorno alla città di Roma sulla questione dei rifiuti, di cui Roma è la maggiore responsabile, perché poi tutte queste cose insomma gioco forza anche da un punto di vista proprio pratico. Roma produce milioni di tonnellate di monnezza, insomma non è che, quindi tutto ciò che sta intorno a Roma sarà coinvolto da quello che non si fa a Roma, ovvero da quello che si fa e si decide a livello politico. Quindi insomma il problema è, questo è un auspicio, una considerazione, dovrà investire necessariamente la città di Roma, no? Cioè sti cavolo dei cittadini e cittadine romane si dovranno rendere conto che se non ci cominciano a ragionare sopra, così come fanno tanti comitati e piccole cittadinanze investite dal problema delle nuove discariche che vogliono costruire o dagli inceneritori, se qui non si risolve la situazione evolverà, per esempio come è successo a Napoli negli anni scorsi con la monnezza fino al primo piano. Allora se i cittadini e le cittadine di Roma non vogliono la monnezza al primo piano, perché poi alla fine questo diventa più che probabile, e allora si dovrebbero cominciare a muovere, a mobilitare per insomma chiedere quello che tanti comitati vanno chiedendo da tempo. Su questo e su quello che è successo ieri veniva fuori anche una questione di comportamento repressivo delle forze dell'ordine, di indirizzi politici evidentemente che ci sono su questo, no? Allora, piccola tentativo ieri di operare una deviazione dal corteo è stato diciamo sanzionato dalle forze dell'ordine pesantemente. Io ricordavo pure che insomma queste 40 persone che stazionavano di fronte al commissariato perché volevano sapere perché si erano portati via un ragazzo minorenne, poi sono arrivati i genitori, gli avvocati, insomma sembra che sia stato confermato l'arresto, non lo so, me lo dicevi tu che c'era sul giornale confermato addirittura in arresto, che capiremo perché, insomma questi sono stati identificati e in più e sono stati ben ripresi da macchine fotografiche e da cineprese delle forze dell'ordine, quindi una schedatura di massa a questo punto. Quindi qui qualcuno potrebbe dire questo, si solleva un problema di diritti, si solleva un problema di diritti e forse qui potremmo allora innestare un ragionamento, oltre che quello che veniva fuori, l'unificazione delle lotte, una soggettività politiche che dovrebbero convergere quantomeno verso degli argomenti centrali, non solo condivisi, ma insomma che sia all'ordine del giorno, viene fuori questa tentativo di analizzare o di mettere a confronto o di riflettere su quella che è stata una proposta politica uscita una decina di giorni fa, 15 giorni fa, più o meno, sul Manifesto, che si chiama proprio Manifesto per un nuovo soggetto politico. E è stato presentato dal Manifesto questo lungo documento che contiene parecchie cose, su cui poi si è innestata, diciamo, io non lo chiamo dibattito perché per me questi non so dibattiti, so comunque altri interventi di altre persone, esponenti della cultura, intellettuali, c'è un po' di tutto, qualche volta anzi molto spesso sono i soliti noti che ragionano su quello e che hanno fatto esposto le loro argomentazioni su quello che era stato questo testo iniziale. Allora, qui il collegamento ci può essere, no? Nel senso che la prima domanda è: ma che relazione c'è tra questo tipo di lotte, ieri ad Albano, ma diciamo è stata più volte nominata la Valsusa come riferimento più evidente, più importante, diciamo, di certi tipi di mobilitazioni che tra l'altro riguardano il territorio, e questo va sottolineato perché in questo Manifesto del nuovo soggetto politico si parla abbondantemente del territorio. Che relazione c'è? C'è una relazione, e un po' oggi volevamo anche ragionare di questo, no? Che relazione c'è tra questo tipo di lotte e la formulazione di questa proposta? Allora, io la proposta me la son letta, me son letto anche tutti gli interventi che ci sono stati finora, e dico la mia impressione, insomma, cercando di essere breve in modo che ci sia anche possibilità di discuterne tra noi e con chi ci ascolta. Non tanto in senso teorico, ma possibilmente cercando sempre di mantenere le cose relazionate al presente, a quello che c'è effettivamente, quello che si muove effettivamente nella società. Io da questa proposta intanto ci sono due aspetti, uno sul piano formale della proposizione e l'altro sul piano dei contenuti. Allora, sul piano dei contenuti io lo sintetizzo, poi magari durante il dibattito che se ci sarà, insomma, se le conversazioni in studio e fuori dallo studio verranno fuori, io dico che a me sembra decisamente non un passo indietro, ma qualcosa di veramente scollegato dalla realtà, perché la sostanza di questo Manifesto per un nuovo soggetto politico, da un lato si fonda sul cosiddetto bene comunismo, che è una formulazione, insomma, un po' esagerata, no? Perché mette insieme una formula già di per sé piuttosto affaticata, che è quella dei beni comuni, con un'altra parola che è il comunismo, per cui viene fuori da comune comunismo, viene fuori questo discorso del bene comunismo come nuova frontiera rispetto, e qui il ragionamento sarebbe lungo, rispetto alle ideologie del passato, quindi rispetto al Novecento, dove nel Novecento c'era solo il comunismo, non c'era il bene comunismo. Oggi si vorrebbero abbinare queste due cose, da un lato per ammiccare al passato, quindi formalmente mantenere aperta un collegamento con i movimenti rivoluzionari, progressisti del passato, e dall'altro viceversa attualizzarlo con questa scoperta, riformulazione dei beni comuni, dove per beni comuni, insomma, io non mi dilungo, ma c'è di tutto, a parte il fatto che ne parlano un po' tutti, insomma, ne parla la Santa Sede, i preti, ne parlano i politici, quelli, insomma, questa definizione di beni comuni è diventata una coperta molto lunga che copre un po' tutto, e dentro ci si è infilato di tutto, dal lavoro all'acqua, all'energia, alla terra, ai rapporti, insomma, c'è veramente un po' di tutto, quindi è difficile intanto identificarlo. Quindi il fatto stesso che questo manifesto per un nuovo soggetto politico sia centrato su questo bene comunismo è già di per sé faticoso, prenderlo, interpretarlo, capire che cosa significa, no? Perché poi dal bene comunismo, e qui forse è il collegamento con alcune cose che dicevamo rispetto a ieri, rispetto anche a questo bloccare la gente negli aeroporti per non farla andare in Palestina, c'è il discorso dei diritti. Allora qui si fa un gran parlare di diritti, e questo in particolare, questo manifesto per un nuovo soggetto politico ne parla proprio in maniera sovrabbondante, direi, dimenticando però, e qui lo trovo del tutto scollegato dalla realtà, che i diritti non sono appesi, diciamo, come veramente come i prosciutti o come altre cose, per cui uno è un self-service e quando gli servono li tira giù, stanno a disposizione i diritti. I diritti non vengono prima del resto, i diritti vengono dopo. I diritti vengono e nascono anche storicamente dai conflitti. Le leggi non è che qualcuno è nato con le leggi, a meno che non crediamo, insomma, al Padre Eterno che ha dato i comandamenti e ha scritto la legge, l'ha trasmessa con le tavole e dice questa è la legge, qualcuno te l'ha data dall'esterno, no. Ma nella storia sociale i diritti e le leggi, quindi il diritto, in senso che comprende anche poi, no, come è tutto il comparto legislativo delle leggi, eccetera, eccetera, viene fuori dai conflitti. Se dobbiamo fare un esempio cretino, forse ce lo ricordiamo tutti a scuola, Menenia Agrippa con la plebe, no? Che la plebe protesta e da lì viene fuori, a scuola e all'università si studia ancora il diritto romano, ma quello... Sì, sì, quella è una cosa specifica. Il lavoro era la schiavitù, per cui insomma non c'era, gli schiavi erano per definizione senza diritti. Ma insomma, questo per dire che non si può, a me meraviglia e sconcerta, insomma, che si ripropongano queste cose, si riproponga una nuova stagione dei diritti, nuova tra virgolette, perché poi è sempre la stessa, più o meno trattata, condita in modo diverso, dimenticando che se qui non c'è il conflitto è inutile parlare dei diritti. Non possiamo rivendicare diritti se contemporaneamente non mettiamo in piedi un conflitto, perché quelli conquistati non solo vengono dal conflitto, ma senza conflitto è chiaro che ce li riprendono, ce li tolgono questi diritti. Siccome in questo manifesto non c'è una parola che riguardi il conflitto, è difficile poi credere che i diritti possano esistere al di fuori di questa dimensione conflittuale. E siccome la dimensione conflittuale rimanda pure a un'analisi della società, che se non la vogliamo divisa in classi perché diciamo che è una cosa vecchia del Novecento eccetera, però in qualche modo perlomeno è divisa da interessi diversi, e gli interessi diversi vanno identificati, vanno spiegati, vanno detti. Gli interessi di chi campa col lavoro dipendente, comunque denominato, qualificato, sono diversi da chi campa con la rendita, col profitto, da chi campa perché ha delle professioni diverse che gli consentono una attività semi-imprenditoriale o comunque professionale, che campa non di una prestazione effettiva ma di un valore quasi simbolico di questa prestazione, cioè l'operaio fa il muro, il muratore fa il muro da qui a là e te pagano tanto a mattone messo su, ma un avvocato su quel che lo paghi? Tanta causa? No, non è così, perché ogni causa poi c'ha un valore diverso, non è che non si possono fare le stesse cose. Allora, questi interessi che sono diversi, in certi momenti come questo, vanno direttamente in conflitto, in contrasto fra di loro. Non puoi accontentare gli avvocati, i professionisti, per non parlare ovviamente dei padroni, dei rentier, cioè de quelli che campano de rendite, eccetera, eccetera, pretendere di accontentare loro e nello stesso tempo accontentare chi sta sotto. No, a un certo punto vanno fatte delle scelte. la divisione degli interessi, anche se non la si può considerare una divisione di classe, è comunque una divisione tale per cui chi si propone come soggetto politico dovrebbe tenerla in considerazione. E quindi fare, visto che viene dal manifesto, viene da un'area di sinistra, eccetera eccetera, dovrebbe farne un riferimento specifico su questo. Viceversa, io non ce l'ho trovato. Faccio un esempio concreto: si tenta di dire che il, per esempio, il destino del pianeta non può essere affidato a interessi individualistici, indicando con questo e spendendoci parecchie parole che il comune, il bene comune si distingue dall'altro, che è un bene privato o privatistico, perché il bene comune non è soggetto a interessi individualistici individuali, ma è soggetto viceversa a interessi collettivi. Messa così non vuol dire niente, perché quando si dice che il pianeta non può essere affidato a interessi individualistici, si sottace il fatto che il capitalismo non è un interesse individualistico. Il bene del pianeta non è, sembra che qui il bene del pianeta sta a mano a 100 disgraziati fedenti che ne governano effettivamente le sorti. Sto famoso 1% che governa il mondo e il 99% che sta sotto, per me è una stronzata enorme, insomma, proprio perché è molto più complicata la composizione della piramide sociale, degli interessi, eccetera eccetera. E dire che appunto il pianeta è in mano a interessi individualistici senza nominare il capitalismo, io lo trovo non una dimenticanza, lo trovo un'omissione voluta. E la cosa mi comincia a dare allora un'altra sensazione di questo soggetto politico. Perché? Perché nel momento in cui mi dici che l'egoismo è contrario al bene comune e tu proprio esalti il bene comune al massimo e non dici una parola sulla cosa fondante dell'egoismo singolo e collettivo, quindi della speculazione del profitto, che è la proprietà, perché non si dice niente su questo documento della proprietà, e la proprietà è un furto di per sé, c'è stato fatto pure in firme tanti anni fa, allora significa ancora che, per me, come a mio giudizio, che stai truccando le carte, cioè che tenti di fare un'operazione che è quella di mettere insieme e di non andare alla sostanza delle cose, alla struttura, no? Di come effettivamente questa società è composta, per cui ci sono degli interessi materiali che contrastano, che vanno in conflitto e da cui soli possono discendere eventualmente diritti diversi, formulazioni diverse. E non parlare di questo, non parlare della proprietà, parlare dei beni comuni e non accusare il fatto che questa società è uno dei fondamenti è la proprietà privata, e dirlo esplicitamente, anche questo mi sembra un'omissione non da poco, e quindi una omissione voluta. E non si parla di economia, come dicevo, non si parla di capitalismo espressamente, no? E viceversa ci sono formulazioni che di carattere, che una volta si dicevano sovrastrutturali, che effettivamente lasciano quasi il tempo che trovano, insomma si arriva a concepire, a ipotizzare anche un governo e autogoverno delle passioni, c'è un paragrafo insomma abbastanza lungo dedicato alle passioni e all'esaltazione, noi dobbiamo vivere anche di passioni, cioè, e finisco. Qual è la sensazione che ho? È una sensazione che non solo gli scopi di questo nuovo soggetto politico cercano di riassumere insieme interessi contrastanti e mantenerli a tutti i costi insieme, quando proprio storicamente, socialmente, sotto tutti i punti di vista insieme non ci possono stare, ma partono poi da un ceto politico intellettuale che veramente è scollegato dalle lotte come quelle di ieri, eppure ne parla del territorio, lo mette al centro delle cose, perché poi i beni comuni evocano subito il territorio, no, per tanti aspetti, però ne parla in maniera quasi ideologica, ovvero se non è ideologia è comunque o sociologia, perché qui sto documento è scritto, ci troviamo poi le figure, ci sono i firmatari, tanti sociologi, tanti pedagoghi, tanti psicologi, tanti giuristi, non ci sta, che non hanno, che portano con sé e trascrivono in questo documento la loro conoscenza specifica, cercano di metterla insieme, quindi viene fuori pure un po' una cozzaglia da questo punto di vista, però dimenticando completamente quella che è la realtà. La realtà non la vedono, vedono questo, e lo fanno con la presunzione che ormai è stantia, perché voglio ricordare che nel 2007 e nel 2005 ci sono stati già altri due tentativi. Nel 2005, per chi non se lo ricorda, venne fuori la creazione del grande contenitore permanente della sinistra. Dentro c'erano parecchi degli stessi firmatari di oggi, però c'era in più anche Rossana Rossanda, Sorrosa, insomma, no, c'erano la meglio ex gioventù della sinistra radicale italiana, insomma, che oggi viceversa non so tra i firmatari, la Rossanda ha comunque scritto in maniera critica su questa cosa qua, e che pure quella ha fatto una fine non ignominiosa, che è caduta nel dimenticatoio, perché sono queste proposte che a un certo punto si vedono al circolo, non so quale circolo si incontrino queste persone, un circolo immaginario, decidono che è il momento di formulare un nuovo soggetto politico, buttano questa proposta attraverso un mezzo che, insomma, apre il dibattito, è aperto a questo tipo di iniziativa come il giornale Il Manifesto, e poi c'è l'aspettativa, per non dire la pretesa, che questo faccia discutere tutti quanti, diventi l'elemento di discussione centrale del movimento. È stato rifatto pure nel 2007 questo, vi ricordate la manifestazione del 20 ottobre 2007? C'era il governo allora Prodi, c'era il governo Prodi in carica, c'era sta manifestazione della sinistra radicale, Rifondazione più altri, più il PDC, eccetera, eccetera, che proposero, e anche qui ci furono cose appiccicaticci incredibili, insomma, bisognava starci tutti per sostenere un'idea radicale di sinistra, e che era una cosa che non io l'ho conservato, e diciamo ci sono formulazioni che fanno veramente c'era ecco qui diciamo, non serve una somma delle attuali nicchie, tantomeno che ogni nicchia speculi sulle altrui debolezze. Serve una campagna di ascolto del popolo della sinistra italiana e un percorso per una soggettività nuova. Come vedete, questo nuovismo a tutti i costi richiamato sempre. Questo è il 2007. Il socialismo del 2000 ci può stare dentro questa manifestazione e questa convocazione. Il socialismo del 2000. Il comunismo dei beni comuni, quindi era già presente come formulazione, l'ecologismo isomorfico, che io non lo so, che insomma c'ho difficoltà, insomma sarò ignorante, ma c'ho difficoltà, agire in pratica come si propone in teoria, a cominciare dal mangiare sano e dal bere acqua di rubinetto, vabbè, non mi sembra tanto una cosa così, fare manifestazioni, cortei, conferenze con i governanti, i governati che hanno coscienza critica del proprio limite e dei limiti di ogni governo, e solo così riescono, insomma, tutto, venite, c'è dentro tutto. Allora mi sembra che questa questa ennesima formulazione di un soggetto nuovo ma vecchio per tanti versi abbia veramente il fiato corto, e soprattutto non c'entri niente con le esperienze concrete che nell'università, nelle scuole, In alcuni quartieri, in alcuni territori, come il caso di Albano, come il caso della Valsusa, con fatica si cercano in piedi di mettere in piedi dei movimenti reali. Ecco, io credo che questo con i movimenti reali c'entri veramente poco. Sì, hai fatto un'ampia descrizione del documento. Io mi mantengo su più terra terra, dato che ne so pure io nel passato vittima di questi giochetti che il manifesto ha sempre fatto. Io l'ho sempre definito che il manifesto è l'elastico, tira l'elastico all'interno dell'istituzione tra, diciamo, Partito Democratico e quello che si muove fuori. Ha fatto sempre sto giochetto in cui, no, gioca, eppure questa volta si stanno inserendo dentro sta situazione. Questo è un altro elemento di distrazione di massa, per impedire che i conflitti si unificano, si inseriscono loro dentro proponendo un nuovo soggetto politico. E molto terra terra ci vedo un ceto politico che cerca di rimediare qualche posto. volgarmente ai comuni, alle regioni, in Parlamento, questa gente che ricicla sempre la cosa. Non sono personaggi nuovi quelli che... Diciamo, qualche problema al telefono, lo diciamo subito perché qui ci squilla in continuazione ma non riusciamo a prendere la telefonata. Io non lo so se dipende da noi, qua funziona tutto, però noi squilla in continuazione no, ma non prendiamo. Allora, io proprio su questo, a questo punto mi fa ancora incazzare, perché in questa lettura che tu gli hai dato, l'unica esperienza reale che ha unificato i conflitti nello spirito e nell'ideologia, nella forma, è stato il movimento non TAV, no? In cui ormai da Palermo a Trieste si riconoscono con quella lotta e lo stesso modello cercano di applicarlo alle lotte sul territorio, sui beni comuni, no, questi non lo trattano per niente, come se il fatto non sussiste per loro. Tant'è vero, sono tutte realtà, personaggi fuori dai movimenti reali, però si mettono a parlare a questi movimenti reali che tutti i giorni si piano le manche nell'ate quando gli scappano e si piano le denunce, capito? Però sono gli stessi che all'indomani del 15 ottobre hanno subito diviso la piazza, sono quelli che si prendono le distanze dei buoni e dei cattivi. Però vogliono parlare pure con i cattivi, secondo loro, capito? Anzi, vogliono rappresentarli, come se il problema, la rappresentanza è all'interno delle istituzioni. Non è che io ci faccio schifo a starci, ma dato che questi ci hanno fregato più volte, con sto fatto che tu ce li manni e ce li stai, e i peggio passaggi sono venuti quando qualcuno ci ha mannato chi diceva ste cose, no? C'è diventato presidente della Camera, no? Dopo aver smontato il movimento di Genova, e ci vedo la stessa operazione. Sono rimasti orfani dell'antiberlusconismo, adesso si stanno inventando e vogliono persino rovinare il discorso dell'esperienza positiva dei beni comuni, dell'acqua libera, che è stato un movimento trasversale senza appoggi di politicanti, ma cittadini, comitati locali hanno raccolto le firme, si sono fatta la campagna elettorale, hanno ottenuto il risultato vincendo il referendum, e questi come pirati cercano di piazzare sta cosa. Io lo voglio dire brutalmente, non mi convince, anche perché partano della democrazia partecipata, ma do cazzo l'hanno fatto le riunioni per farmi partecipare? Io manco so che questi si vedano. Allora bisogna smascherare subito, ci hanno già fregato altre volte con questo modo. Vai. No, io condivido totalmente la disamina che faceva Giorgio su questo documento. Io per quello che ho letto di questo documento condivido il fatto che non solo sia un passo indietro, ma è non solo sia ambiguo, ma anche estremamente, diciamo, confuso. Per ritornare alla questione, ad uno dei temi centrali di questo documento, quello che aveva ripreso anche Giorgio sui diritti, è evidente che i diritti si determinano nel conflitto, cioè i diritti si forgiano sulla base di come un conflitto porta a compimento una nuova struttura economico-sociale, e quindi i diritti non sono qualcosa di dato una volta per tutte, sono qualcosa che va continuamente riacquisito, ma che va aggiornato pure sulla base di un modo di produrre, di un modo di entrare in relazioni sociali, di una serie di processi culturali. Seravici, abbiamo una telefonata. Pronto? Pronto, buongiorno a tutti. Buongiorno. Pure ho scorso le firme del nuovo soggetto politico e non ci ho trovato nemmeno un operaio. Sarà che gli operai in questo periodo... E copiano, sono tutti professori come il governo. Troppo occupati a lavorare gli operai, quelli fortunati naturalmente, perché gli altri invece non lavorano nemmeno. Sono disoccupati, sono precari, eccetera. Insomma, il nuovo soggetto politico sarà nuovo soggetto politico, ma quanto ai firmatari, francamente, chi ha l'età, mi posso permettere di dire nostra, perché mi sembra che siamo tutti quanti, diciamo, oltre i 50, se li ricorda sti nuovi soggetti politici e sti nuovi firmatari nei decenni passati, non negli anni passati soltanto. Per fortuna, diciamo, oltre al fatto che francamente a me personalmente, che faccio ferroviere, non me ne frega niente del soggetto politico, non sarà un'opinione politica, ma vi assicuro che c'ha un senso, dentro i posti di lavoro, come al solito, questi nuovi soggetti politici e dei loro contenuti non se ne discute, abbiamo altri problemi, chi è fortunato come me e che lavora da una 35 anni. Diceva giustamente Giorgio ai cari signori del suo nuovo soggetto politico, niente forza, nessun diritto, lo vediamo oggi, la classe operaia è nell'angolo, i diritti vanno attendono a zero, altro che cazzate, altro che mix fatti tra sospensione della democrazia, società del 99%, direttamente importata dai loro cosiddetti nemici americani, beni comuni, diritti, eccetera, eccetera. Insomma, un ciarpame francamente a cercare di coprire e di raccattare forse qualche voto o qualche consigliere circoscrizionale nelle prossime elezioni amministrative, chissà, o quelle politiche dell'anno prossimo, vedremo. Ora, finché questo tipo di argomentazioni si fa per scherzare, insomma, perché io non le considero nemmeno teorizzazioni alla faccia di questi intellettuali qua, di fermatari del nuovo soggetto politico, e finché queste cose stanno scritte da quelle parti lì, diciamo che non trovo nessuna novità. Quando insomma invece poi i determinati concetti, insomma, o quello che mi è sembrato di capire, ma non soltanto dalla discussione di oggi, ma è un discorso che viene da lontano, direi almeno da Genova del 2001 o da subito dopo Genova del 2001, allora il problema secondo me si fa più preoccupante e quantomeno degno di una discussione un po' più approfondita, di cui la vostra trasmissione ovviamente è un tratto fondante. La discussione intorno alla questione della sospensione della democrazia cosiddetta, cioè io ho sentito oggi in trasmissione un compagno, non mi ricordo, non so come si chiama, non me lo ricordo, che diceva che il potere non ama la legalità. Ecco, io francamente su un'affermazione del genere, insomma, non lo so, mi sento in difficoltà ad accettare un discorso del genere, perché la domanda mi viene spontanea, no? Cioè, quando si parla di sospensione della democrazia e si dice che il potere non ama la legalità, allora io mi domando, no, cioè, chi la dovrebbe amare sta legalità e chi la dovrebbe difendere questa legalità, chi la dovrebbe difendere sta democrazia? Spero che non la dobbiamo difendere noi, perché se no dopo 40 anni di lotta contro l'opportunismo sindacale del Partito Comunista cosiddetto ci ritroviamo a difendere gli stessi valori che abbiamo sempre avversato, insomma, no? Ecco, allora mi verrebbe da dire che la campagna sulla sospensione della democrazia, che non è per fortuna una campagna soltanto di movimento, di parte del movimento, che è una campagna anche borghese, è una campagna anche della Chiesa Cattolica, è una campagna anche dei partiti e dei sindacati, è una campagna che cerca di farci difendere a noi uno strumento che non è il nostro, quella democrazia e quello Stato della borghesia che è lo stesso che fa le stragi e non le condanna nemmeno. E non mi va bene nemmeno appellarmi al diritto di questo Stato, insomma, per condannare le condanne non date, cioè, non mi interessa niente, noi abbiamo un'altra verità, una volta si diceva che la verità è rivoluzionaria, non abbiamo bisogno di aspettare i tribunali di Stato per sapere chi sono gli esecutori delle stragi, a partire da quella di Piazza Fontana, ma anche prima, ed arrivare a quella di Piazza della Loggia di questi giorni e così via. Altro corno, insomma, e concludo perché hai qualche minuto, della campagna sulla sospensione della democrazia, a mio parere è quella sulla trasparenza e sulla lotta contro l'ingiustizia e contro le caste, no? Oggi è pieno di denunce compatibili, altro che non esiste il dissenso di Stato esiste, non solo è compatibile, ma è auspicato. Quanti stelle e Rizzo ci stanno? Quanti giornalisti sono questi? Addirittura Giordano, un altro elemento, fracicone lì del direttore, mi sembra, o giornalista del giornale che ha scritto quel libro contro la casta, poi la Chiesa, partiti parlamentari. Me l'ha fregato a me perché l'avevo scritto io e lui si è preso quei dati. Vabbè, insomma, poi ci sono quelle narrazioni di coso, là, De Vendola e compagnia. Insomma, c'è una sorta di denuncia di Stato, una denuncia di sistema funzionale che tende ad accreditare nella sospensione della democrazia la possibilità appunto di un miglioramento, di una funzionalizzazione del sistema, insomma c'è uno scandalo tra virgolette, che denuncia i lati più obbrobriosi di questa società, le ingiustizie più evidenti, per riportare le cose in ordine e far digerire a tutti quanti questa democrazia, anzi a farla difendere, a farla diventare propria. Mentre invece, al di là di tutte queste denunce appunto di sistema, compatibili, così le definisco, qualsiasi lavoratore, qualsiasi operaio sa come stanno le cose. Chi ci sta sul serio, sul posto di lavoro, lo sa quanto che il suo dirigente diretto guadagna 20 volte più di lui, che il suo padrone ne guadagna 200 più di lui, che il parlamentare guadagna 100 volte più di lui, e il sindacalista è imparassita che si fa dal distacco per non lavorare più perché il lavoro è una catena, insomma, no? Allora non è che io da qui, da questo mio ragionamentino, faccio dedurre che la denuncia in sé è inutile, anche se francamente, e su questo se ci sarebbe da aprire un altro capitolo, probabilmente alcune forme di manifestazione, comprese quelle di piazza, a mio parere probabilmente in questo secolo andranno un po' riviste, aggiornate ai rapporti di forza e alla strategia che cediamo. Non è che la denuncia non è più utile, il problema è che non deve e non può rimanere fine a se stessa e soprattutto non può essere funzionale a una difesa di sistema, al suo miglioramento, alla sua funzionalizzazione, ma deve essere funzionale a una critica, a un superamento, a un soppiattamento di questo sistema. Ricordiamoci sempre una cosa, senza nominare vecchi articoli che voi conoscete almeno quanto me, come quello democrazia borghese e comunismo proletario, no? Però insomma sto sistema qua è dei padroni, non è il nostro, è il loro sistema, ci hanno fatto una rivoluzione per ottenerlo sto sistema, adesso tocca a noi cambiarlo, forse con un'altra rivoluzione, chi lo sa. Saluto, grazie. Ciao, speriamo. Ciao. Io dicevo solo una cosa, a livello di battuta, tanto per cominciare su questa cosa, i primi diritti, specialmente per il lavoro, nascono con la Comune di Parigi, fino allora c'erano solo gli schiavi, va bene? Cioè questa è la realtà, e con le lotte, e mano a mano le lotte aumentavano i diritti, come le lotte calavano i diritti, e oggi c'è questo problema. L'altra cosa sul discorso da violenza, non violenza, perché questi poi la pongono, persino Machiavelli, nel 600 mi sembra che Machiavelli di quell'epoca, no, diceva che solo le sommosse, i modi portano buone leggi, buone avanzamenti, sono nate sempre coi tumulti, le chiamava lui, i tumulti sono un fatto positivo perché spingono avanti la società. E beh, noi questa cosa ci dobbiamo pure tenere in presenza. Vai, parla. Se c'è difficoltà nel prendere qualche se via telefonata. No, io dicevo questo per tornare, concludo rapidamente il ragionamento che facevo prima sulla questione del conflitto, ma è evidente che il conflitto, per essere realmente tale nella situazione odierna, deve prendere di mira qualcosa di ben preciso. Giorgio evocava il termine capitalismo, ma di questo si tratta. Ora, un conflitto reale oggi, dati i tempi che corrono, data la situazione vigente, deve prendere di mira la struttura economico-sociale e giuridica di questo sistema. Cioè, per fare questo, però, e mi ricollego anche alla telefonata del compagno, per fare questo, lui lo accennava, bisogna fare un conto dei rapporti di forza che ci sono, di come si mettono in campo di come si mette in campo, diciamo, le lotte, di come ci si unifichi intorno, diciamo, ad un progetto che sia in grado di avere un'altezza tale da contrastare il progetto avversario che oggi si dipana nella maniera in cui abbiamo definito una sorta di dittatura mediatico-finanziaria. Ora, noi abbiamo un compito davanti, che è quello intanto di non fare nessuna operazione in vitro. Io pure non sono assolutamente d'accordo su quella proposta che veniva avanzata sulle pagine del manifesto, per una ragione semplicissima, che è una proposta in vitro, una proposta di laboratorio. Le proposte di laboratorio hanno sempre prodotto dei mostriciattoli, dei Frankenstein, hanno sempre prodotto dei Frankenstein, quindi noi abbiamo bisogno di qualcosa d'altro. Io quando immagino che si debba arrivare alla progressiva creazione di un soggetto autonomo che abbia rilevanza politica, immagino che si debba partire dalla messa in rete di tutte le lotte sociali. Ora, a tal proposito, però, per non far rimanere sempre questa, come diceva Giorgio, pure questa, un prosciutto appeso, una mera, diciamo, dichiarazione di intenti, qui bisogna che tutte le forze antagoniste che si muovono su un terreno, diciamo, sociale di lotta, e anche che quelle forze antagoniste, alternative al capitalismo, alternative ad ogni iniziativa che vada nella direzione di entrare dentro i processi del centro-sinistra o dentro questi pateracchi che vengono formulati da intellettuali che si avvicendano di anno in anno e che poi ritornano, ha bisogno però anche da parte del movimento di trovare anche, diciamo, una organizzazione che perlomeno si riferisca ad una conferenza di livello di stampo nazionale, che parta da tutte le iniziative di lotta aperte e che si confronti. Certo, da lì non è che nasce il soggetto politico, ma nasce perlomeno una riflessione. Quindi niente di tutto ciò che ci viene propinato e che sa il sapore, ripeto, dell'operazione di laboratorio, della creazione del mostriciattolo, oppure di quelle subdole escamotage ai quali Ettore faceva riferimento. Serafì. Però c'è una necessità, che se non si vuol cadere nella frustrazione, un'iniziativa che tenda ad unificare a livello nazionale una serie di processi di lotte sociali, bisogna che qualcuno la cominci a mettere in piedi, a ideare, dopodiché i passaggi saranno verificati sulla base di un programma politico che può trovare delle convergenze da parte di tutti i soggetti che partecipano, diciamo, ad una dibattita, ad una discussione di questo tipo, e non mettiamo limiti, diciamo, al futuro. Sentimo cosa ne pensano, no? Perché noi tutte queste cose le avevamo vissute, passate, sti giochetti. Qua ci stanno due pischelli, c'hanno 20 anni a testa, non si ricordano niente di questo. Che lettura gli danno a questa situazione? Sentiamo pure il parere loro, se no noi ci facciamo, no, con la passione, ma dei pipponi che conosciamo a memoria. Vai. Ma prima di tutto voglio dire che se devo criticare questo manifesto per un nuovo soggetto politico, voglio farlo in maniera costruttiva, non perché penso di recuperare i firmatari a una teoria, una pratica di lotta diverse, ma perché penso che una critica, per essere buona, deve sempre proporre una valida alternativa, perché sennò è sterile e fine a se stessa. Io l'ho letto, l'ho analizzato e ci ho riscontrato delle cose, anche se ho 24 anni, comunque un po' di cose degli anni 80, 90 e 70 le ho lette, quindi qualche cognizione di causa del passato ce l'ho, e ritrovo delle riproposizioni di cose che già sono state dette negli anni passati, nei decenni passati, e di critiche che sono state già portate da movimenti. E la prima questione è che subito all'inizio del manifesto, del documento, c'è scritto: oggi meno del 4% della popolazione italiana ha fiducia nei partiti istituzionali e nella possibilità che questi hanno di rappresentare le loro istanze. Benissimo. Viene analizzato questo dato, non so quanto sia reale, però è molto verosimile. La proposta che si fa per contrastare questa mancanza di fiducia è proporre un nuovo soggetto politico, ovvero un nuovo, non lo chiamano partito, lo chiamano comunque organizzazione politica. Quindi già per me questo è il primo punto critico. Come fai a dirmi c'è mancanza di fiducia nelle organizzazioni politiche, nei partiti che stanno nelle istituzioni, e tu me ne proponi uno nuovo? Il discorso è di fondo dell'andamento della situazione politica ed economica non solo del paese ma a livello internazionale. Sono, penso, più di 30 anni, 35 anni già che ci stanno delle analisi di come sarebbe andato il mondo, di cosa avrebbe portato la globalizzazione, quali effetti avrebbe avuto il neoliberismo sulla, non solo sul paese ma su tutto, comunque quantomeno l'Europa e il mondo occidentale. E cioè che prima di tutto un illimitato potere delle lobby economiche e finanziarie. e parallelamente a questo uno svuotamento delle prerogative del potere dello Stato-Nazione e di quasi tutte le proprie istituzioni. Mo' poi c'è questo millantare il potere delle regioni, che non è effettivo nel nostro paese. Tutto ciò ha vantaggio di organismi sovranazionali, sia politici ma soprattutto economici. Benissimo, sono 30 anni e passa che si dice che lo Stato-Nazione e le sue istituzioni non abbiano più alcun potere. Cosa si propone è il ritorno alle istituzioni, che io condivido, continuo a chiamare borghesi, di quello stesso Stato, per tentare di fare non si sa che cosa. Cioè, se non hanno più alcun potere, se il potere è nelle lobby economiche, nella fattispecie nell'Unione Europea, nella Banca Centrale Europea, nel Fondo Monetario Internazionale, tu che cazzo ti proponi di fare? Dalle istituzioni, loro propongono il comune. Il comune in Italia non ha praticamente alcun potere, deve semplicemente scegliere a chi dare gli appalti per determinate opere che vengono decise però a monte. Questo è un primo passaggio. Cioè, viene messa come questione prioritaria e fondamentale della nostra situazione politica la rappresentanza istituzionale. Può anche starci, nel senso che comunque parlando con la gente, chi vive le strade, parla, c'è questa mancanza di un effettivo contraltare, di un contrasto all'interno del Parlamento e delle istituzioni a tutto lo schifo che stanno facendo. Ma per me non può essere quello il modo, cioè rientrarci a piedi uniti dentro queste istituzioni, soprattutto anche per un discorso, cioè non prendiamoci per culo, questo è un documento socialdemocratico. Un documento rivoluzionario dovrebbe porsi come obiettivo, e penso che qua dentro tutti noi ce l'abbiamo questo obiettivo, la distruzione delle istituzioni, non la modifica dall'interno verso un obiettivo dei beni comuni, un ritorno alla comunità non ben precisato. Per cui già questo è un punto fondamentale, è un testo socialdemocratico che si propone di fare, nonostante le critiche al novecentismo, ai partiti, alle organizzazioni politiche del Novecento, si propone di fare quello che è già fallito nel Novecento. Poi, andando un po' più approfondendo il discorso, manca, secondo me, una capacità di autocritica. Non mi stupisce, perché non sono i firmatari di questo documento dei militanti politici, dei soggetti che fanno politica giorno per giorno, sono dei professori. E manca un'autocritica, ovvero che anche le forme che hanno proposto di democrazia rappresentativa, partecipativa, mista, citando gli esempi di Porto Alegre, di queste assemblee divise per tavoli che poi decidono tutti insieme, chi deve andare in quei tavoli, chi deve andare in quelle assemblee plenarie? Deve andarci la persona che non ha praticamente coscienza né di sé né del mondo? Come si fa a catapultare una persona che fino ad oggi ha sempre vissuto in un sistema di sfruttamento e oppressione, pensare che poi catapultarla in un'assemblea plenaria cittadina del comune che debba decidere della vita della collettività possa poi prendere le decisioni giuste per se stessa e per tutti gli altri? Manca un passaggio fondamentale che viene prima, che è l'informazione, che è la sensibilizzazione, che è il tentativo di far prendere coscienza alle persone. Un esempio su tutti, viene citato varie volte, per me sono passaggi comunque sterili, fatti giusto per farli, la questione di genere dell'emancipazione delle donne. Benissimo, come si fa a pensare che al sud Italia soprattutto le donne possano prendere coscienza di sé e portare delle istanze di cambiamento all'interno delle istituzioni? Per me è una cosa impossibile, è falso questo pensiero di poter prendere la gente e portarla dentro le istituzioni direttamente. E poi vengono fatti dei passaggi anche sulla riappropriazione. Cioè loro quello che intendono è ritorno alle istituzioni, ritorno ai beni comuni e al potere del comune per riappropriarsi di quanto i padroni ci hanno tolto. Benissimo, per me la riappropriazione o è reale, effettiva, è fatta materialmente, perché se deve essere accompagnata da delle leggi fatte da uno Stato comunque capitalista, non è reale. Cioè è come se ci stiamo prendendo per il culo. Io condivido un po' le cose che avete detto fino ad ora, cioè questo pseudo tentativo di manipolare e manovrare il malcontento sociale che c'è nel paese, che però, io ripeto, ancora non si vede realmente. ci stanno tante piccole cose. L'unico movimento forte, sempre per ripetere, è la Val di Susa, il movimento Notav, però sono tante piccole cose. Effettivamente siamo ancora su un piano di resistenza e come proposta, cioè come critica costruttiva, io porto: è vero che è necessaria un'unificazione delle lotte sociali, non tanto dei collettivi, dei centri sociali, delle organizzazioni politiche per creare un ceto politico, ma un'unificazione e coordinamento delle varie lotte sociali. Dobbiamo però partire dal presupposto che queste lotte sociali sono ancora minoritarie, sono ancora insufficienti e non hanno ancora, secondo me, le capacità sia numeriche che proprio materiali di riuscire a vincere. Su un piano di resistenza forse si può, secondo me il movimento Notav su un piano resistenziale può vincere in Val di Susa, però su un piano rivendicativo di andare a togliere quello che i padroni ci hanno già preso negli ultimi anni, ancora non abbiamo questa capacità e va fatto un lavoro, questo io l'ho detto già varie volte, è un discorso che affrontiamo nei nostri collettivi alla Sapienza, è un compito che abbiamo, cioè quello di ritornare fra la gente nei quartieri e tentare di ricostruire quel vincolo fiduciario che non ti dà il media, non ti dà l'articolo sul giornale o il servizio in televisione, ma ti dà il confronto giorno dopo giorno, faccia a faccia. Perché se non si parte da quello, noi possiamo pure tentare di bloccare la strada in 15, 20, 100, 200, 1000 persone, ma è una cosa comunque non reale, perché è una cosa che succede per 5 minuti, 10 minuti, un'ora in un dato giorno. Se poi non è accompagnata da tutto un processo di... c'è chi la chiama soggettivizzazione, io continuo a chiamarla di presa di coscienza da parte delle persone, per me è comunque sia la proposta di ritornare alle istituzioni, sia comunque la proposta di lottare contro e al di fuori delle istituzioni, è una proposta che lascia il tempo che trova. Se noi non abbiamo questa capacità di capire come fare per allargare il consenso, il nostro consenso fra la gente... Siamo pochi, questo va detto, dobbiamo riconoscerlo sempre e comunque. Non possiamo adagiarci sul fatto che le settimane di mobilitazione dopo che Luca Bà è caduto dal traliccio e dopo il corteo del 3 marzo hanno portato migliaia e migliaia di persone in piazza a Roma. Non basta quello, quello è un giorno. Se poi nel mese dopo non succede nulla, non si costruisce nulla, non sto dicendo che è il caso di Roma Notav, perché per esempio l'altro giorno, e questo è già un punto da cui si può partire, l'altro giorno c'è stata un'assemblea alla Sapienza in cui erano presenti vari comitati territoriali di lotta contro la speculazione, la devastazione ambientale, contro la cementificazione nella città di Roma e subito fuori, nelle periferie, sia dentro che fuori il raccordo. Quello è un primo momento che tu dicevi di coordinare le lotte, però sono lotte sociali, è vero, la maggior parte sono composte da militanti politici che già fanno politica in altre militanze, in altri collettivi, però comunque quello è il primo passaggio. Tentare di coordinarsi. Nel frattempo ogni comitato, io suppongo, e penso che lo facciano bene, continua a fare un lavoro sul territorio tentando di allargare il proprio consenso. Questi sono i punti su cui noi dobbiamo puntare. Non si può pensare che oggi, in questo momento, con un malcontento crescente si possa ridurre tutto alle istituzioni. È come uccidere qualsiasi istanza di cambiamento. Già quando, poco tempo fa, c'era la paura che Vendola, per me era una paura, che Vendola andasse alle elezioni, tentasse di concorrere col PD, diventasse il leader di una coalizione di centrosinistra. Per me, perché la ritengo una paura? Perché se Vendola va al governo, ti uccide la metà delle possibilità che tu abbia di combattere contro i padroni. No, oltre a tutto questo, che è uno dei motivi, no? Per esempio, c'è sta la gente che è incazzata, partecipa in massa ai cortei, e le organizzazioni che le promuovono gli danno la trombetta, bandierina e il cappelletto, si fanno la loro sfilata, magari bloccano il traffico, fanno incazzare il sindaco di Roma, no? E il giorno dopo è tutto tranquillo, in attesa della prossima manifestazione. Cioè alcune operazioni si fanno in continuazione, giorno per giorno, si devono lottare. Vieni una volta tanto come manifestazione centrale, ma devono essere decine e decine di manifestazioni locali, territoriali, di discussione nei quartieri per la presa di coscienza. Oggi purtroppo ci avemo questi mistificatori, come le CGL e CISL UIL o operazioni alla Nichi Vendola, che pensano di raccontare a narrazione le condizioni sociali di chi le vive, però loro stanno in un'altra nicchia a livello sociale. Sicuramente non sono gli stessi che vivono il problema di mettere insieme il pranzo con la cena. Si sono trovati in quell'altro posto, perché che io chiudo, no? Propongo sempre di mettere un tetto ai redditi e fare divieti di cumulo. Questa cosa a questa gente non le pia sul serio, perché se mettono questo limite si devono limitare loro stessi, no? C'è Bertinotti che cumula 3 pensioni, ma quando cazzo si mette? Parla degli operai, però intanto si pia tutti i privilegi che le istituzioni che lui c'è stato dentro gli hanno dato e che le stesse istituzioni gliel'hanno levata all'operai, e lui però ne parla. Ma io volevo aggiungere un paio di riflessioni riallacciandomi di nuovo all'inizio del documento e appunto all'affermazione che il mondo del politico ha perso il suo potere nei confronti del mondo economico, del mondo della finanza, del mondo, diciamo, dei padroni e dei grandi padroni del mondo ormai globalizzato. Appunto si dice che il politico ha perso molto del suo potere e della sua influenza, però si propone di creare un soggetto che ritorni esclusivamente nel campo del politico istituzionale e del rappresentativo. Cioè si dice fondamentalmente facciamo una lista civica nazionale, non si chiamerà partito magari, al stile dei magistri Spisapia, così, una lista civica nazionale in cui ci candidiamo e ci prendiamo i comuni, qualche municipio, cose del genere, però non si trova, cioè qui se è l'economia e sono i potentati economici a comandare, ad avere tutte le leve del potere, le lotte non possono che essere sul terreno economico e sociale, cioè devono partire da questioni concrete, dai bisogni, devono partire dalla difesa, però una difesa strenua, come appunto vediamo Albano in Val di Susa, del territorio, oppure lotte economiche, in modo prettamente economico, sul mondo del lavoro ad esempio, non si può prescindere, e io non trovo niente di tutto questo là. Nel mondo del lavoro lottare appunto per salvaguardare quei diritti, quella dignità sul posto di lavoro che è stata conquistata con tanto sangue e non è stata chiesta, non è che appunto i movimenti chiedevano dateci lo statuto dei lavoratori, cioè si trattava di lotte pesanti, di lotte che mettevano in discussione un sistema economico intero, che si proponevano di riprendersi tutto e di levare tutto ai padroni e che hanno ottenuto qualcosa, insomma, forzando la mano più e più volte. Adesso appunto non vedo che senso possa avere rientrare sul piano del politico istituzionale sacrificando le lotte di riappropriazione, cioè le lotte che fanno paura al potere, ai poteri forti dell'economia, poteri più o meno forti, cioè sia quelli grandi, globali, finanziari, sia il padroncino di casa nostra. E quindi, insomma, un soggetto politico nuovo che si propone di rappresentare le lotte non può sicuramente prescindere da tutto questo, altrimenti diciamo appunto suona solo come un'operazione politica che però ai movimenti non ha niente, cioè ai movimenti non ha niente da dare, ma solo da prendere casomai. E appunto in questo ci abbiamo la telefonata. Pronto? Pronto. Dici. Sempre riallacciandosi. Alza un po' la voce. Scusa. Volevo dire, ma i modelli comportamentali chi ce li dà comunque? Cioè il parlare, il discutere della situazione attuale, no? Come diceva prima il compagno per radio, cioè chi è che ci dà i modelli comportamentali? Come si fa poi a dibattere, a discutere e i giorni seguenti le manifestazioni o le giornate di protesta, come si fa a continuare la protesta? In che modo? E in che modo poi associare tutta questa forma di lotta con il vivere quotidiano, che ormai nessuno più vuole rinunciare alla vita quotidiana così come c'è data a oggi, cioè con tutti quanti quelli che sono gli orpelli che ci circondano e i bisogni indotti che sono ormai 30 anni che ci hanno messo nel cervello. Quindi bisognerebbe fare un piano, un diciamo così, un un movimento, ma a livello, insomma, a livello quotidiano, è una forma di lotta quotidiana che comunque esuli da quello che sia una forma di lotta violenta, pure perché ormai la violenza non paga, cioè non è possibile, sono troppo più forti di noi, inutile andare a fare lotte armate o le rivoluzioni, intanto vincerebbero loro e ce le primerebbero, così come si è visto, come si vede e come si continua a vedere, perché se una barricata le costa un anno di galera, o scendiamo tutti quanti in piazza, quindi ci devono dare un anno di galera a 10, 20, 30 milioni di persone, oppure insomma, cioè, praticamente non sono i nostri governanti, i nostri politici che devono rendere conto a noi piuttosto che noi dobbiamo rendere conto a loro. La volontà popolare è stata proprio disattesa continuamente, cioè dal 93, dai referendum del 93 fino a quello dell'acqua pubblica. La volontà popolare è disattesa, cioè questi se ne fregano proprio. Adesso stanno a fare sta campagna sul finanziamento pubblico ai partiti, non si capisce perché, secondo me, per mettere in mezzo tutti quanti i partiti e mettere loro questi pseudotecnici al governo, anzi alla conduzione di uno Stato che è il nostro, con la prepotenza finanziaria, per cui, cioè, allora almeno, visto che voi fate queste analisi ben specifiche, che comunque spaccate in due il capello, non lo dico per ironizzare, ma allora vediamo pure di trovarlo un metodo di lotta quotidiana e non soltanto un metodo di lotta santuaria che ci vede scendere in piazza soltanto al momento che ci rompono il cazzo. Vabbè, abbiamo capito. Grazie, ciao. Allora, concludo un attimo. Nel senso, per chiudere, per farla breve, recuperare una modalità di lotta quotidiana sul terreno dei bisogni, cioè a partire da quello che veramente, ma noi in primis, cioè non è che dobbiamo scoprire la gente che bisogni ci abbia, perché siamo noi stessi ad avere in buona parte gli stessi bisogni. A me sinceramente non va, proprio per fare un esempio concreto, cioè il tavolo di lavoro stile social forum per decidere se è meglio chiedere il reddito di cittadinanza o il default controllato, non me va, cioè proprio non me va per niente. A me, figuriamoci, penso a uno sfruttato X qualsiasi, cioè a me va di individuare i miei bisogni, che sono appunto in buona parte dentro la città, la metropoli, nella vita quotidiana, gli stessi di milioni di altre persone, e tentare di battere punto per punto su quelli, cioè recuperare direttamente e magari da lì, cioè sviluppare proposte politiche. Ovviamente questo sta a noi, se no, come diceva giustamente prima Francesco, diventa critica sterile e a noi non va di fare critica sterile a programmi di altri. Quindi a noi sta la capacità di individuare dei punti efficaci per combattere, per contrastare il profitto nel terreno concreto, e da là sperimentarsi e da là proporre la costruzione di un soggetto politico, chiamiamolo come ci pare, conflittuale, rivoluzionario, passatemi il termine, e così basta. No, volevo giusto un attimo rispondere a questa telefonata che si interrogava su quale metodo di lotta potessimo utilizzare per cambiare la situazione. Prima di tutto un passaggio sulla cosa che dice che è impossibile vincere, metto fra virgolette, militarmente contro lo Stato. Può essere un'interpretazione, anche perché lo Stato-nazione, l'unica prerogativa che gli è rimasta nei tempi della globalizzazione e del neoliberismo, è proprio quello della repressione e del controllo per mantenere alti i profitti dei padroni. Non è reale, perché per quanto loro non siano l'1%, sono comunque meno di noi, sono comunque meno degli sfruttati. Ora, a parità di numero, forse è ovvio che vincono loro sui mezzi, ma non c'è bisogno di avere gli stessi mezzi che abbiano loro, che hanno loro, per poterli battere. E poi c'è anche un po' questa visione del carcere come fine della lotta, come problema che incarcerando una, 10, 20, 100 persone poi vengono ammazzate le lotte. No, nel momento in cui una persona viene tradotta in un carcere, e lo dimostrano i compagni Notav del Piemonte che stanno dentro, non finisce lì la lotta, anzi lì si apre un altro fronte. Quindi anche i padroni in questo devono stare attenti, perché ora i fronti di lotta aperti sono non troppi, ci stanno, ma aprire anche un fronte di lotta all'interno del carcere non so quanto possa giocargli a vantaggio, magari nel momento attuale sì, ma in una prospettiva di medio termine penso che possa essere una grandissima rottura di cazzo averci le prigioni in rivolta. Quindi, cioè, sì, va bene la riflessione, la prudenza anche, giustamente, non è che qui nessuno vuole tentare di andare a farsi arrestare per forza, però una riflessione anche quantomeno realistica della lotta fatta su più fronti va fatta. Il metodo di lotta da attuare, io un po' l'ho accennato prima, non possiamo stare qui col tempo che ci rimane a dire quale metodo di lotta sia più giusto, perché ognuno penso abbia la propria visione, però quantomeno per avere forza effettiva bisogna puntare a, cioè, un collettivo, un gruppo o una rete di collettivi deve puntare ad avere una forza sul territorio, perché è quello che ti dà la possibilità di contrastare lo Stato quando viene a reprimerti. Benissimo, io prima l'ho accennato, è stare giorno per giorno, può essere il volantinaggio, può essere la chiacchierata, può essere la megafonata costante per tutto il quartiere come manco fossimo l'Arrotino. Cioè, questo discorso qui, giorno per giorno, ti porta a farti conoscere dalle persone, rompe anche lo schema mediatico, per cui quando vai a fare gli scontri il 15 ottobre, il 3 luglio e il 14 dicembre o quando sarà, invece di pensare la gente e di dare credito a quello che dicono i giornali, dice: io sono sicuro che là c'è stavano le persone che ogni giorno stanno nel mio quartiere a fare politica, so che queste sono brave persone perché non sono terroristi, non mi vengono a levare a me il pane, il lavoro, la casa, eccetera, sono persone che combattono a fianco a me per i miei bisogni e le mie necessità. È quello che ti crea il vincolo fiduciario. Non basta, ovviamente, perché per lottare contro lo Stato non basta essere militanti, 15 militanti in ogni collettivo, c'è bisogno di allargare proprio il fronte, proprio numerico, ma anche qualitativo. Siamo troppo finora concentrati sul... È vero quello che diceva, combattere lotta per lotta, quando ci rompono il cazzo scendiamo in piazza. Quello che va tentato piano piano, non c'è, secondo me, abbiamo un po' la fretta, però non possiamo neanche fasciarci la testa. C'è la necessità di anche noi pensare a istanze di cambiamento, proprio della vita in comunità e in collettività. Pronto? Una telefonata? Allora, una telefonata. Ti mettiamo in onda. E allora scusa. No, non vuole andare in onda. L'ascoltatore non vuole andare in onda. E vabbè, sempre su altre considerazioni, insomma, il fatto che la difficoltà, mi riferisco alla telefonata precedente, sia anche quella di doversi scontrare con una situazione per cui molta gente non vuole rinunciare alle sue prerogative. Allora vai in onda? Sì. Allora, pronto? Sei in onda? Ciao, sono Sergio. Innanzitutto un abbraccio a tutte e a tutti e un grazie per la trasmissione di stamattina, soprattutto per quanto riguarda l'analisi di quel documento che è apparso, mi pare di aver capito, sul Manifesto. Io il Manifesto non l'acquisto da anni, quindi va bene. Volevo, anche per gli altri compagni in ascolto, volevo delle notizie, se ci sono novità, sui compagni che sono stati bloccati a Fiumicino. Vi ringrazio e un abbraccio, ciao. Ciao. E niente, le novità so che sono stati respinti, pertanto sono tornati a casa. I compagni non è che sono stati arrestati, sono stati fermati, gli è stato impedito di partire e ognuno è ritornato a casa, come i tentativi della follia dell'altra volta che l'hanno tenuto fermi ad Atene, no? Ai porti greci, no? E come vai? Adesso l'operazione è che da tutte le parti del mondo stavano andando, qualcuno forse riuscirà a arrivare, ma tocca vedere che gli succede a Tel Aviv. Può darsi che lì i compagni verranno fermati e magari vengono espulsi da Israele. Perciò questa è la novità della situazione. Niente sotto di nuovo sotto il sole. Israele fa così, tratta così i palestinesi, tratta così tutto il mondo. È prepotente, arrogante, perché è forte e armato. tutto qua, insomma, voglio dire, noi bisogna trovare una formula diversa a far riconoscere i diritti, forse persino agli israeliani stessi, perché essendo un regime militare vero e proprio, non lo so se la popolazione israeliana è soddisfatta del livello di vita in cui questo Stato gli garantisce pure, non è che sono lontani dalle, dai bisogni nostri, pure là ci saranno i proletari. Questo, se vogliamo, è un'altra dimostrazione che i diritti nascono dal rapporto di forza, perché attualmente Israele ha un rapporto di forza tale per cui impone solamente la sua volontà, quindi non è negoziabile nemmeno, proprio perché il rapporto di forza è quello che è. Tornando al ragionamento di prima, dicevo, la telefonata metteva l'accento sul fatto che ci si scontra con una grande massa di persone che è stata indotta al consumismo, c'ha tutta una serie di, chiamiamole prerogative, poi insomma la cosa è larga, da cose semplici a cose veramente grandi, comunque dice questo è un ostacolo perché non li convinci a rinunciare. In questo però bisogna anche riflettere che oggi sono costretti a rinunciarci dallo stesso sistema che gli ha dato questi giocattoli, questi giocarelli, perché oggi insomma faccio un esempio banalissimo, il traffico di Roma in questo periodo è decisamente diminuito, insomma, no? Lo rilevano anche un po' tutti quanti, perché la benzina sta a 2 euro al litro. E allora non, la gente gioco forza prende la bicicletta o viaggia con i mezzi pubblici, l'automobile sta ferma, e questo è dimostrato anche dalla crisi delle vendite, eccetera eccetera. Quindi è la stessa crisi del sistema che poi fa sì che quello che ti ha dato come elemento di consumo, perché il meccanismo centrale è quello della produzione, anzi della sovrapproduzione, poi questa sovrapproduzione si ferma di per sé perché non c'è più la possibilità di consumare tutte queste cose, ecco allora che le stesse persone che insomma vengano additate come consumisti, che dedite al superfluo eccetera eccetera, cominciano a verificare che questo superfluo gli viene tolto o no, comunque non hanno più la stessa possibilità di prima di accedervi. Allora il ragionamento da fare è questo: preferisci andare avanti a queste persone qui, preferisci andare avanti con questo sistema che un giorno ti dà e due giorni ti leva, perché poi questo è il fatto, no? Oggi ti ho detto che te potevi comprare una casa, poi te la levo perché il mutuo non lo puoi più pagare e quindi te la sequestro e così via, l'automobile non la puoi più usare perché la benzina costa un sacco, eccetera eccetera. Allora vogliamo andare avanti così, ovvero verso la barbarie, perché poi se tu vuoi seguire a consumare l'automobile, a utilizzare l'automobile, o vai a fare rapine e quindi cominci a, oppure freghi la benzina al prossimo tuo, ammazzi il prossimo tuo. Quindi o c'è la barbarie con questo sistema, ovvero c'è un'altra alternativa, e quindi la rinuncia, tra virgolette, se questo deve essere, è una rinuncia cosciente a quello che è superfluo rispetto a quello che è necessario. E quindi di nuovo un concetto, se non di uguaglianza, certamente di egualitarismo, per cui la distribuzione della ricchezza va fatta in modo diverso da come è adesso, insomma, no? E quindi non è più un sacrificio rinunciare alle idiozie e il consumismo che ti dà sta società, è una presa di coscienza, come dicevano i compagni prima, è una scelta soggettiva ponderata, insomma, no? In questo sta la sollecitazione della dei compagni, delle compagne, di chi in qualche modo ha già acquisito una coscienza politica, perlomeno ha già fatto alcune riflessioni, alcuni passaggi di, come veniva detto, insomma, di estendere e possibilmente consolidare sotto forma continua, quindi con continuità, quelle che sono esplosioni di rabbia, di contestazione, di rivendicazione saltuarie o comunque periodiche. Quindi e in questo allora di nuovo il metodo che accennavano pure i compagni prima. Oggi credo che, rispetto al discorso che si faceva sui partiti, che c'era anche in quel documento, per cui questo nuovo soggetto politico, pure se non si chiama partito, perché lì viene detto c'è un coordinamento, no, confederale che gira a rotazione, insomma le formulette teoriche ce le possiamo inventare, ma la sostanza non cambia, cioè ti riproponi di nuovo come rappresentato, ti autocandidi di nuovo a essere il rappresentante di una serie di interessi che abbiamo criticato, eccetera, eccetera. Quindi di fatto è una di nuovo autocandidatura. Ecco, rispetto a questo, il metodo che descrivevano i compagni, viceversa, è quello dell'auto-organizzazione, perlomeno, non dell'autocandidatura, e quindi di sviluppare e poi mettere in rete, in coordinazione, realtà, lotte che si sviluppano sul territorio e anche, non fuori, e anche fuori del territorio. Insomma, quindi le questioni di metodo e anche che venivano sollevate mi sembrano un po', diciamo, riconducibili a questi discorsi qui, insomma, no? A queste controdeduzioni rispetto a quello che, insomma, veniva anche detto in quella telefonata là, insomma, ecco. Per cui io non so adesso, stiamo anche in chiusura, credo che la giornata di ieri, insomma, che comunque io vorrei anche vedere degli aspetti positivi, non so come voi l'avete vissuta, perché in ogni caso, insomma, la manifestazione ha raccolto parecchio, no? Sia dal punto di vista della popolazione locale, sia, come dicevate, dal punto di vista della partecipazione di altre, appunto, piccole realtà, perché ragioniamo con una somma di debolezze, è fuori discussione ancora rispetto alle necessità del momento, che però, insomma, non sempre già averle messe insieme già è qualcosa, tanto per vedere il bicchiere mezzo pieno, poi certamente il bicchiere è pure mezzo vuoto, insomma, quindi bisogna sempre vedere le due metà del bicchiere, insomma, non credo. Per tornare un attimo sul bicchiere mezzo pieno di ieri, appunto, volevo anche spezzare una lancia a favore della mobilitazione di Albano e anche del contributo dato dalla Roma Notav e, diciamo, solidale in generale con le lotte contro i profitti e contro le devastazioni ambientali. Probabilmente comunque c'erano migliaia di persone in un paese piccolo come Albano, non è un dato scontato, persone di tutte le età, con una giornata particolare, piovosa, non incentivava andare ai castelli, esatto, e comunque, appunto, gente di tutte le età, in questo ricorda, più in piccolo comunque ricorda alcuni elementi presenti anche nella lotta in Val di Susa. Forse per questo ha fatto così tanta paura, forse per questo è bastato fare 50 metri di corsa per prendersi una carica indiscriminata, forse è per questo che nessun giornale ne ha parlato. Quindi, insomma, andare avanti sul terreno, appunto, delle lotte vere, delle lotte che siano come ad Albano contro l'avvelenamento da inceneritori e contro i profitti, perché quello è un altro punto messo chiarissimamente in evidenza dai compagni e dalla cittadinanza in generale dei castelli romani. Quindi gli elementi da cui iniziare, ci sono un'altra battuta, mi veniva in mente quando Giorgio parlava del prezzo della benzina. Appunto, a Roma c'è stato un dato statistico, dopo l'aumento così alto della benzina sono aumentati dell'11% i biglietti, cioè il numero di biglietti dei mezzi pubblici fatti. Adesso a giugno che fanno? Aumentano il biglietto a 1,50 euro. Vediamo se può essere quello un terreno in cui iniziare a sperimentare una riappropriazione rivendicata, motivata, cioè non io non pago il biglietto perché non me va, perché sono, cioè, perché così di qua di là, ma io non pago il biglietto perché non vi voglio dare questi soldi che non mi dovete chiedere, non è legittimo che mi chiediate. Vediamo un po' se ce la facciamo. Voi, insomma, so che state lavorando già da tempo su sto terreno dell'autoriduzione del biglietto, anzi di non pagare il biglietto, di pretendere la mobilità gratuita nella città nel momento in cui ti impediscono di tutto. Il discorso della benzina a 2 euro sta portando parecchie macchine ferme, che dato che la macchina ferma comincia a costare, perché non è che se non cammini con la macchina non ti costa niente, no? Il costo della benzina è una parte, poi ci sono gli altri costi, molti stanno pensando persino a vendere o a demolire, perché non c'è un mercato su sta cosa qua, perché non si possono più permettere di pagare l'assicurazione, perché è salata pure su questo. Questi stanno levando tutto, la gente fino adesso c'ha un mugugno, si lamenta, piange, si dispera, si suicida, perché quello che sta avvenendo, c'è una diffusione che non sono solo imprenditori, quando dicono che sono imprenditori magari è un muratore che lavora per conto suo con ritenuta d'acconto. Queste sono le realtà che sta succedendo. E noi questa incazzatura, al posto di buttarsela su di loro, dovremmo cercarla di portarla e farla manifestare. Purtroppo il conflitto non te lo regala nessuno, si pagano i prezzi, sia con la galera, sia con le capocce spaccate. Sappiamo che quelli sono molto più forti di noi, non ci avremmo nessuna partita se noi andremo solamente al conflitto duro, ma dobbiamo trovare forme in cui questi non possono vivere tranquilli. Che l'informazione può nascondere tutta la monnezza che vuole sotto i tappeti alla fine non regheranno più. Tutta la monnezza lì si scarica fuori, come a Napoli, nascondevano, poi alla fine è uscita fuori. Noi chiudiamo, sono le 13.06, siamo andati oltre il tempo a noi consentito, diamo l'appuntamento a domenica prossima, noi continueremo a sviluppare questi ragionamenti, il dibattito è con chi ci ascolta, chiunque, in qualsiasi punto di posizione, proprio perché il nostro compito è quello piccoletto da questi microfoni di aiutare a fare controinformazione e a far prendere coscienza. Sappiamo che ci ascoltano un po' dappertutto e sappiamo che ci ascolta pure gente normale, non abituata, non sono gli abitué, i militanti della radio, insomma, ci ascoltano pure gente che magari per caso mentre fa le pulizie intercetta la radio. Pertanto noi continueremo con questi discorsi. Ecco, questi ascoltatori, per chi vuole mantenere questa voce libera, aperta a tutti, a chi non ha voce, ci deve aiutare alla sottoscrizione. Non facciamo pubblicità, non ci avemo altre forme di finanziamento se non quella che ognuno di noi ogni tanto si tassa. E noi chiediamo, ognuno quanto può, dare un contributo alla radio con la sottoscrizione portata direttamente alla radio, oppure inviare il conto corrente postale al 61 80 40 01 intestata Radio Onda Rossa, Via dei Vosci 56. A domenica prossima. Sai contare? Come contare? Come contare? 1, 2, 3, 4, sai contare? Sì, so contare. E sai camminare? So camminare. E contare e camminare insieme lo sai fare? Sì, penso di sì. Allora forza, con te cammina. Vai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Con te cammina. 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99 e 100. Lo sai chi ci abita qua? Ah, un sudano ci abita qua. 100 passi ci sono da questa notte, 100 passi. Dei vespri e degli aranci, tra cinesi e Palermo parlava la sua radio, negli occhi si leggeva la voglia di cambiare, la voglia di giustizia che lo portò a lottare.